Gian Maria. Gian Maria! Eccomi! Buonasera! Sembra bella la sera, eh! E beh, bagnati di sé stamattina! No, io andavo che andavo a pigliare meno i buddi, mi ha preso un pochettino d'acqua e basta, no? Poche nulla di buddi. Allora si è andato bene! Mi chi l'ha fatto, Micio? E mi ha fatto un bel... Vabbè, ho iniziato ero giù a Usham, dove c'era la Conabi lì, ed ero sotto, ma quando sono uscito da buio, io ho già mangiato in via le portatore. E anche a me ho trovato fuori, perché sono andato a prendere il pane grattato lì. Vicino al e sì, ho visto l'aria proprio che stava salendo, adesso piove a Parigi. Sono vinto dal negozio e c'è pure già qualcosa da fare. Arrivo a casa, cazzo, diluviente, diluvio. Purtroppo è così, che mi ha fatto un bene, ne ha fatto, gatta, in viale portatore c'era tutto allagato. Sono veri 20 centimetri di neve alta. E faccio immaginare, cazzo, sì, sulla strada, io sono uscito due volte, perché dopo sono andato anche alle poste, poi sono andato anche alla cola là, e ti dico che, ho bagnato un pochettino là. Avevo il cappuccio, però cazzo, ma mi ha toccato anche andando alle poste, non riuscivo a uscirne dalla macchina, però mi sono messo una cosa in testa e sono entrato, magari sono riuscito tutto di niente. Sono così, anche io mi sono caduto in via del portatore, c'è che non ne ho durrendo, era tutto allagato via. Aspetta, vedeva ascolta un messaggio Marino ti ha mandato, mi sembra di sì, ieri mi l'ha mandato uno, ieri me l'ha mandato un altro, adesso mi sembra che ci sia un altro, dopo lo leggo a vedere un po' cosa c'è. Sicuramente il messaggio di di Natalino. E cosa è successo? Se n'è andato dall'altro mondo. Non me lo dire, no. Che cosa è successo? E qua in cosa non te lo posso dire. Comunque, non so quando sarà il funerale, no? Bisogna che glielo chieda a Marino. Ecco perché non stava entrando questo periodo. Ma il discorso all'inizio l'ho sentito quando aveva l'operata, però dicevo, sapevo che, come l'ha detto lui, che non stava tanto bene, che si è aggravato. E mi dispiace, purtroppo la vita non è. Stava soffrendo il poverino, Parecchio buco la soffrendo, parecchio. Però fa la vita così, siamo nel passaggio, sembra che la spezzi e succedono queste cose. Mi dispiace veramente, grazie. Quella rara non ci vado più io, grazie. Non ce la faccio, mi fa male, insomma, mi fa male, per cui non ci vado più ai funerali. Ecco perché mi fa male, tutto lì. Lo so, purtroppo. Io non so neanche quando sia, adesso. Non chiederò a Marino, speriamo che me lo dica. Ecco perché non l'ho più sentito. Ah, pensavo così grave, so che stava soffrendo, però non pensavo che era così grave, mi dispiace veramente. E la vita è così, purtroppo, ma se uno per soffrire molto vedo che uno se ne vada e si finisce lì, perché a soffrire brutto è, a stare mesi e mesi e anni è brutto, sto è davvero a stare a soffrire lì e così. Avrà quasi a più? Posso immaginare, gloria. Ma ci conoscevamo, per cui mi dispiace, purtroppo non possiamo farci niente. Vabbè. Purtroppo è così. Io prima o poi succedo queste cose a tutti, purtroppo così. Siamo di passaggio, capito? Prima o poi ne andremo tutti anche da. Ecco perché. Infatti, strano non è, ma strano che non sta entrando a passaggio. È per quello però si vede che si è aggravata e la questione deve fare purtroppo è così, anche lui ha finito di soffrire a uno o prima o poi andiamo a finire lì. Pensarci a queste cose, però aggraviamo la situazione, per cui sappiamo che è così e basta. È vero, ma purtroppo non c'è niente da fare. E cosa possiamo fare? Nulla, non possiamo fare nulla. Perché c'è la roba alla gamba e più alla prostata, mi sembra pure una cosa del genere, a quanto ho capito io, così che vedete si è aggravato. Sì, i dolori erano forti, vabbè, pazienza, va bene così, Giulia, ci sta. E così. E così rivaliamo. C'era anche il giornale. Io, vabbè, il giornale io lo leggo. Tu magari te lo leggi il giornale. Sì, la domenica giuro. Sempre in settimana non ne prendo. Io non ne prendo, non l'ho mai preso a delle verità. Non ho mai preso il giornale, però. E magari anche tu qualche volta così, io lo leggevo, magari il giornale che prendevo in viaggio, magari guardando, ma se no io proprio il giornale lo voglio, certo. E certo, anche certe persone magari conoscenti, gente che conoscevo, sapere magari dopo che è stato fatto tutto a dire non c'è più quella persona, quindi sono così, dai non giornale non le leggi, come fai tu a sapere tutto? Poi i familiari non è che riescono a avvisare a tutte le persone, qualcuno si dimentica, capito? Sì, purtroppo sì. Certo, ma già una ditola girendi i nomi, non è nuovo l'accordo, sono la zanzara che mi sta girando. Certo, qua c'è la una punti a me, l'altro giorno stavo facendo, ho aperto la zanzariera un po', perché stavo guardando fuori, ed è entrata, come entrata, ma appunto i due posti, cazzo. Però già l'ho beccata di domani, e l'ho schiacciata, e buonasera. E buonasera anche a lui, avanti. Ma di Natalino l'avete saputo? Sì, abbiamo saputo, mentre stavamo parlando adesso. Ah, okay. Ciao, buonasera, purtroppo riuscire a fare una commissione. Sì, arregliami un po' a noi pure di questa commissione. No, ma quando mi qualcosa da mangiare, vedo un polpo, ho fame, ma non ho mangiato, perché stavo sistemando un computer, l'ho sistemato, tutto pulito, fatto, c'è un buon po', praticamente lo devo regalare alla mia compagna. Luca, io vado a sé a cosa, vado a contare le cose, ma ci ho imparato nulla. Ah, si può appuntare, certo se lo porti dal tecnico ti spenna, è così, io alla fine faccio prezzi super onesti, tu pensa che il tecnico solo per vederlo vuole 30 euro se non lo aggiusti, poi ovviamente se lo sistemi poi il prezzo sale, capito, è così. Paghi se ne esce di nuovo il sito. No, tanto era... si accendeva, si spegneva tutto da solo, quindi no, già non si adatta lì. Ma un portatile? Sì, un portatile, leggero, piccolo, da 15 e 9, e quindi a 20 di nuovo, vero Gian Maria? Ma è l'unica così, ci vuole più acquistarlo certe cose che ha comprato l'uovo. Anche il mio stava funzionando male, però non era la computer, bensì era da come si chiama, da internet, non mi stava funzionando proprio. E infatti avevo già detto al soffere, ma dice portamelo. E invece la sera l'ho riacceso e ho visto che si è messo a posto. E per tutta ancora funzionato bene, meno male, va bene, io lo uso poco, ogni volta il papà lo uso. E sono un mezzo anni, però ha sempre funzionato bene. Però capitano queste cose purtroppo. Vabbè, dai, andiamo giù. Capitato. Cazzo, si è messo a posto da solo. Ah, no, me l'aveva messo a posto via nuora. Cioè, avevo toccato certe cose e non mi funzionava per quello. Lì già si lavora la computer, per cui la metto a posto subito. E già sta funzionando bene ancora. No, a me lo accendevo. Durava un pochettino e poi si chiudava. A luglio ha svegliato, c'è che è entrato da me di avorda e me l'ha recuperato lui. Ma me lo so che da poco a poco. Ehi, hai fatto bene, almeno c'è il nuovo e sei tranquillo, dai. Io ripeto, io lo uso poco e niente, ogni volta il pappa. E la voce si vede, ho fatto qualche cosa. Non mi dava internet, hai capito? Per quello mi ha messo a posto un po' me l'hanno aggiustato loro e poi mi ha messo a posto. Perché certe volte ci sono questi aggiornamenti, io aggiornamenti non l'ho mai fatto per verità, si fanno da soli. Ma so che come ho visto le cose, schiaccio aggiornamento e si fa tutto lui poi. E poi si riavvia da solo. Perché io molte volte sbaglio anche certe volte, qualche volta lo faccio anche per quello. Però basta dirlo a loro e loro già sanno da che cosa è, me lo mettono a posto. C'erano da parecchi anni, io ce l'avevo a 15 anni questo computer io. Una volta l'ho svuotato e una volta sono svuotato, perché c'erano troppi errori in gioco, però da allora ha sempre funzionato bene. No, quello che è diventato lento, poi ha cominciato a farsi indio, durava 10 minuti e si chiudava, da giubbolito tutto canto. L'avevo riacceso e faceva sempre lo stesso difetto oggi. È arrivato. E ha svegliato a luglio, poi se me l'ho comprato nuovo. Quanti anni ce l'avete? Quello lì, un bel po' di anni ce l'avete. Più di 12 15 anni. Questo, qualche cosa succede, sempre così. Ci ammaliamo noi, ci ammalano anche queste cose, capito? Per cui, però, certe volte magari raccattate che si possa aggiustare, però, anche se è piaciuto comprare, non va fatto bene. Anche a me, qualche riparato mi piacciono, piaccia, tante cose io certe volte le butto, mi viene a comprare nuovo, se posso, sempre se posso, però se non posso questo mese, sarà fra due o tre mesi, però devo dire che è una cosa che mi interessa. Infatti ho preso tutta la cosa che mi serviva e l'ho messo dentro un hard disk esterno. Adesso quando c'ho tempo attacco l'hard disk e guardo a vedere se l'ho recuperato nell'hard disk, lo recupero nell'altro computer, è quello nuovo. Ecco, lo fa provare, deve avere sempre il ricambio per sicuro se riesci a metterlo a posto. Tu lo usi, tu lo usi molto, fai tante cose, ma io non faccio niente, io guardo solo cosa, qualche aggeggio, anche per dire, anche baracchino, a guardare, ma altre cose non le so fare, non è che sono un appassionato come te. No, quando è tra giorno, nel lunedì, mi sembra, non sono... martedì che avevo scaricato i referti delle analisi che ho fatto, mi sono scaricato e tutto quanto, e vi aggiungo pronti perché mi servono domani mattina dalla dottoressa. Beh, quando servo hai fatto bene, vedi, scaricato si tranquillo. Io non lo so fare queste cose per dire, per cui non lo faccio perché non lo so fare. Non mi sono mai interessato, capito? Per cui, anche il telefono per dire, io il telefono uso poco e niente. Io uso poco e niente, ce l'ho così magari anche quando c'è di campagna oppure quando riesco a fare le spese, se serve qualche cosa. Ma per altre cose non lo... C'era un telefono che era un retro per computer e tablet e vi adottero, tutti e due. E qui si è fatto altro, ma io non mi sono mai interessato perché non voglio che mi aggirarmi la testa per altri già che ho i pensieri lì, chi vuole a queste cose. Beh, per i baracchini non mi sono sempre interessato, di quello già mi sono interessato, ma proprio per altre cose, no? Infatti è così, purtroppo. Io già mi vado tutto canto, ma ho fatto riavviare, andare, fare, però arrivi 10 minuti e da voi si chiuda. Quindi ha detto, mi vogliamo. E ce l'ho lì, ce l'ho. E mi ha dato lo giambo. Adesso guarda se riesci a mettere un po' nell'altro e c'è il cambio dei lampieri. C'è la cassata per aggiustare, no? E per cui se hai due sei tranquillo, un po' di tempo. Io mi rispondo stavo per accendere, però avevo di fare, non ho toccato. Un po' ritarda e un po' a entrare in funzione il tocco. Quando la chiesa va bene, ma avere l'internet è un po' ritarda, ecco, almeno un quarto d'ora c'è per voi. Poi quello nuovo si accende subito e lo metto la password e funziona subito. Ed è velocissimo. Invece il mio è un grande andario, si tratta, è per umano. capito qualche cosa che qui mi può interessare. Anche il presidente cercava il PL e anche quanto l'ho cercato e lo uso anche per quello, a vedere un po' gli apparecchiaturi eccetera, capito? Mi piace a guardare. Sì, no, per quello sì, no, questo qua è quello vecchio, vulnerabile di mezz'ora a sentirsi tutto canto, il tuo e mi dice di arrivederci, fatti 10 minuti ci curava, tu vai a figlia di dire che tu vai a fare la volta perché ad operato a posto di quel computer lì. Ma quello è una resistenza che c'è, appena si lucì c'è qualche resistenza bruciata, ma è la cassata magari. Io ripeto, lo devo portare a sciopero, non so se è per conduttore sciopero, e lui mi mette a posto questi computer, però ho fatto anche quello del portatore, che prima era il giambugino, adesso pare che sia il conduttore, e mi ha detto a portarglielo, e non gliel'ho portato, e già me l'ha messo a posto di allora. Ha arrivederci mentre poveccio di Gogio e mi ha detto ci risentiamo, mi ha detto ogni tanto mi accendo, però dura poco, ho provato a tornare a pulirlo e dopo c'è una ventola e Gogio, però non andava più, e gli ho detto vabbè, va a rimanere dei voci come così. E già gli ho buttato una barra. Io l'avevo comprato anche la seconda batteria, perché la batteria originale dura poco. Mi sembra che è durata 6-7 anni. E dopo si scaricava subito. Allora mi avevo ordinato Luca la batteria nuova, anche più grossa pure la batteria che mi avevo ordinato. E durava anche il più grossa, io sto portando bene, e per cui quando tuttora scarpe rispetto, c'è il ritardo, però quando si accendono, è un buon modo, capito, funzionava, fa tutto, Quello che c'avevo io, ho cambiato la batteria lo stesso. Così è durata un paio d'anni e a voi gli ha data, ha detto arrivederci Buruglisi, ha detto oh, vabbè, quando è coso, ha detto me lo voglio nuovo, e infatti a lui la giambiata me l'ha comprato lui. E hai fatto bene, io pensavo che eri interessato molto al 5005, invece non ti interessa più. Hai fatto bene, hai comprato il computer. Cosa mi fa prendere un altro apparato, va a durare mezz'ora, cosa mi rubiglia a fare? Già ce n'ho di cose che vanno qua, a buglia. Ehi, vabbè, io ho detto così perché avevo saputo che mi aveva detto è verso settembre, così, infatti, stavo guardando, c'è ancora. Se ne ha, voglio mi raccomando. Evidentemente si sta perdendo a uno, va. Vabbè, ma io già me lo voglio fare. Adesso lo fermo che faccio, fa mezz'ora. Vabbè, e io ogni tanto accendo quello, ogni tanto accendo questo, ogni tanto accendo l'altro. Così che diviso tre, ogni tanto ne accendo uno solo. E li metto in tre scatole bene conservati. E da voi, magari due o tre lì, da voi dovrà ciabare. Sì, grazie. Ogni tanto ne tratti uno. Era già da parecchio lo accendevo, questo è 7.900, sembra un apparecchio professionale che si manda, ma lo è già accesso, vabbè, questo che sto usando C'ha l'AM e FM solo, e boh. Questa c'ha tutto, c'ha FM, FM, questa c'ha tutto. E anche quelli che c'ho sono tutti così. Cosa, posso dopo dopo che non c'ha le matte. È il 2000 che non c'ha le matte. E invece c'è gli altri tre, se li hanno lasciato tutto, dai. Sì, no, vabbè. Poi c'ho da usare... Quando è USB già faccio vitastro, a voglia, vedete già fa tutto. E poi togliamo le basi che non siamo usati per mangiare, acqua se la copri a fare, poi c'è là per cui va bene così, ciò vai. Durante il giorno c'è nulla, no, non li accendiamo, la sera così, quando capita 10 minuti e poi boh, e cosa bisogna fare? Infatti è così, già non bisogna fare, fatelo, guarda poi già trattarlo, manco una mezz'oretta. Ah, va bene così, so. Hai fatto bene a prendere. Sta compiuto, ma che dico, ecco, eccoci qua, è la telefono, mia figlia che ha le tele, e mi stava facendo vedere tutto, e così è, e domani piove, sì? No, non ne ha messo pioggia per domani, ma sono buono. Sì, oggi andrò dalla dottoressa domani, alle 11:30, anzi alle 11, alle 11 esco da qua, meglio se prima gli dai, ma gli devi fare un posteggio buio. E dov'è perché la dottoressa tua? Tu a... dove c'è, salendo da Coso, da Viale Trento, su in alto dove c'è vicino a Papa alla farmacia. Ah, ho capito. E già lo trovo il parcheggio. Oh, non sempre, perché anche lì è il fatto sempre così. Cazzo, è un bel traffico c'è. Ma speriamo che lo trovi, dai. Infatti. Io devo di cammino e quindi vado prima. Quando ha già avuto il getto e vado alle 11:25 e cerco di essere lì. Magari esci prima per andare poi per loro dal fisico, capito? Esci prima, ci cerchi il parcheggio e vai con comodità. Tanto se non piove sei tranquillo, là. Infatti. Con comodità e per un zecco piano piano a voi il resto. Okay. Va bene, vai, io chiudo che ci va a fare, dai, ci sentiamo alle prossime. Buon proseguimento, ci sentiamo. Saluta Marino se lo senti, ciao. Sì, ok, ciao Gianmarino, ci risentiamo alle prossime.